Siamo con Vito Cramarossa di Cime per parlare del WordPress Photo of the Year che sarà in esposizione allo spazio Murat a Bari dal 27 aprile al 27 maggio. Vito, ben trovato. Buongiorno, ben trovate voi. Allora, sono state annunciate le foto vincitrici proprio in questi giorni. Siamo ancora ad Amsterdam in realtà, perché qui i lavori vanno ancora avanti e tutti i fotografi candidati e vincitori stanno di fatto esponendo il loro lavoro. C'è stata la premiazione due sere ieri, di fatto, ieri del vincitore del WordPress of the Year, perché ricordiamo il concorso, la mostra concorso che viene indetta ogni anno, Sì. ha circa 6.000 fotografi partecipanti con 100.000 scatti, una roba impressionante, e vengono di volta in volta nominati e premiati in diverse categorie, ambiente, sport news, eccetera, eccetera. Tra tutte queste foto poi c'è, diciamo, la vincitrice tra le vincitrici, che è proprio il WordPress Photo of the Year, e in questo caso quest'anno è andato a Ronaldo Schmidt, che come avrete già visto su tutti i giornali, è questo ragazzo infuocato che corre in Venezuela durante una protesta. Ed è una foto molto potente, molto, diciamo, che balza immediatamente agli occhi. Sì. Come è organizzata la mostra a Bari? Come sarà strutturata? A Bari, diciamo, WordPress Photo, le vincitrici, che sono circa 150, viaggiano in una mostra itinerante per 100 città del mondo, e una di queste, iniziamo proprio il giro da Roma, da Roma e da Bari e da Siviglia. Queste sono le tre città che iniziano, come sono le prime mostre. A Bari, sarà strutturato in questo modo: noi abbiamo dal 27 aprile, giorno in cui inauguriamo, fino al 27 maggio, abbiamo ovviamente l'esposizione delle foto, ma inizialmente noi cerchiamo di far vivere un po' la mostra, e quindi organizzeremo una serie di incontri con fotoreporter vincitori dei WordPress Photo. Ricordiamo che in gara hanno vinto 5 fotografi italiani, alcuni di questi saranno a Bari con noi, e ci saranno anche altri fotografi internazionali, fotoreporter internazionali, che ogni sabato alle 4 incontreranno i visitatori per mostrare i loro progetti, per rispondere alle loro domande, per rispondere alle loro curiosità. All'interno della mostra, durante nei giorni giovedì e venerdì, ci saranno ancora altre attività e altri eventi che riveleremo tra qualche settimana, appunto, poco prima dell'inaugurazione. Senti, di Roma invece cosa mi dici? Roma invece si tiene al Palazzo delle Esposizioni, Ok. e niente, è come diciamo un museo, quindi diciamo, la mostra credo sia interpretata in questo modo. Comunque le foto sono, diciamo, sono ovviamente le stesse. Ok. Io invito tutti gli ascoltatori a visitare la mostra lì dove è possibile. Ci sono 100 città del mondo, quindi eventualmente possono scegliere. Noi come organizzazione di Cime gestiamo, diciamo, offriamo la possibilità ai cittadini di diverse città, tra cui Bari, Palermo, Napoli e Torino, dove i radioascoltatori, dove ovviamente riescono ad arrivare prima, anche per questioni di tempo, potranno vedere le WordPress Photo nelle diverse tappe. Iniziamo dal 27 aprile a Bari, a Palermo invece inizia il 14 settembre, a Torino iniziamo a metà ottobre, e a Napoli inizierà il 24 novembre. Quindi, diciamo, il tempo c'è. Bisogna soltanto organizzarsi e scegliere la tappa. Ci ricordi quanti sono i lavori esposti? Allora, i lavori esposti sono 133 esattamente, sono divisi in categorie differenti, tipo un primo, secondo e terzo premio, E abbiamo anche la WordPress Photo of the Year, che è appunto la foto di cui vi parlavo prima. Senti, com'era cominciata la vostra attività nel portare queste mostre in Italia? Allora, noi, la nostra organizzazione, ormai da 10 anni, svolge attività culturali ed eventi, soprattutto in Europa, sebbene abbia base, diciamo, a Bari. Però facciamo eventi un po' in tutta Europa di promozione sia del territorio che di promozione culturale. Nei vari eventi che abbiamo svolto nelle varie città, tra Bruxelles, Londra, Parigi e via dicendo, abbiamo incontrato la Fondazione WordPress Photo, con cui abbiamo iniziato a collaborare, inizialmente con una semplice tappa a Bari, e adesso siamo di fatti l'exhibition partner più grosso della Fondazione WordPress Photo, che gestisce bene 4 tappe italiane. Senti Vito, dal tuo punto di vista, oggi che la fotografia è nel digitale, con tutte le possibilità di modificazione che ci possono essere, quale continua a essere il suo ruolo? Un tema caldo, il tema delle fake news anche, che è immediatamente collegato alla possibilità di manipolare le immagini. E durante queste giornate stiamo difatti approfondendo questo punto. Difatti tutti possono essere fotoreporter oggi, perché tutti hanno una macchina fotografica e poi è lo smartphone Sì. con sé, però l'importanza che oggi deve dare al fotogiornalismo è l'affidabilità delle fonti. Per questo ha ancora senso per tutte le testate affidarsi a fotoreporter professionisti, Ok. perché appunto le immagini possono essere che possono essere ovviamente manipolate, e i messaggi possono essere interpretati in maniera differente. Ecco perché il lavoro del fotoreporter in realtà è un lavoro, come di tutti i giornalisti, Sì. è un lavoro essenziale. Molti dicono anche per mantenere uno stato di democratico ed essere continuamente informato su quello che accade. Anche in base alla tua esperienza in questi 10 anni in cui avete portato le WordPress foto in Italia, e come sta cambiando l'occhio fotografico dalle varie parti del mondo da cui arriva? E cos'è oggi la fotografia? Dove va? Oggi sicuramente, beh, prima c'è una variabile fondamentale oggi, Sì. che è la velocità. I Sì. fotoreporter lavorano al secondo, mentre prima, per esempio, un inviato speciale in una zona di guerra, per mandare una foto, addirittura aveva dei macchinari, questo parliamo di un po' di anni fa, in cui non c'erano malapena i fax. Addirittura c'erano delle persone in cui l'unico compito era prendere una foto e tornare al giornale a Parigi, a New York o a Londra. E oggi internet ci dà la possibilità di comunicare all'istante quello che accade. Quindi in realtà fotoreporter sono tanti, ma la loro attività è diventata frenetica, perché non basta più inviare una foto, ma inviano probabilmente centinaia di foto su un unico evento. Quindi il rischio è che molto spesso si possa avere una qualità minore in cambio di una quantità maggiore di informazioni. Sì. L'elemento fondamentale è saper filtrare l'informazione, la migliore informazione. E questo, diciamo, è il nodo principale che oggi giornalisti e fotogiornalisti devono affrontare. Vito, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente. Riferimenti web www.wordpressphotobari.it, tutte le informazioni sulla mostra, il programma completo e qualsiasi, ovviamente, riferimenti, troverete tutti i riferimenti per fare le vostre domande, curiosità, oppure sui social troverete WordPress Photo Bari, e anche lì tutte le informazioni che vi servono per poterci venire a trovare. Allora ricordiamo l'appuntamento con la mostra WordPress Photo of the Year al Spazio Mura a Bari dal 27 aprile al 27 maggio. Un saluto e un ringraziamento a Vito Cramarossa di Cime, che è uno dei curatori di questa mostra. Vito, un abbraccio, a risentirci presto, in bocca al lupo. Grazie, vi saluto, grazie mille, a presto.